vaganti e lo silenzio cade pace impazzire, e la noia cade pace scazzicare, e la noia cade pace scazzicare. We'll be right back.